È un'avvocata tra le più importanti e autorevoli e note dell'Iran, da sempre ha difeso sia nella sua professione in casi sensibili prigionieri di coscienza, persone arrestate solo per la loro opposizione al regime iraniano, e poi è stata protagonista di campagne sui diritti umani, prima tra tutte quella contro l'uso massiccio della pena di morte nella Repubblica Iraniana, e per questo suo impegno in favore dei diritti umani ora rischia di pagare un prezzo altissimo, che significa quasi 4 decenni di carcere. Sì, abbiamo visto la condanna a 33 anni e 148 frustate, che insomma è per anche un processo che ha molti dubbi, diciamo così. Ma è un processo iraniano, peraltro svolto in contumacia, perché lei era già in carcere a scontare una pregressa condanna a 5 anni per presunti reati contro la sicurezza nazionale, spionaggio e altri reati assurdi. E questo processo si è svolto, secondo il cliché classico, un processo irregolare, in cui addirittura il giudice ha voluto utilizzare quell'articolo del codice penale che prevede la possibilità di aumentare la pena massima prevista per un determinato reato se nel processo i capi d'accusa sono superiori a 3, quindi proprio il massimo della crudeltà e dell'accanimento contro una persona che in un paese normale dovrebbe essere portata proprio come esempio di eccellenza e che invece viene messa a tacere o si tenta di mettere a tacere per sempre. Tu dicevi impegnata in campagne per i diritti umani e anche per, come dire, ha assistito le donne che hanno dato vita a una protesta contro il velo e la condizione femminile, quindi insomma in Iran rimane una questione al centro dell'attenzione. Beh, è proprio un tema di diritti umani, è quello della discriminazione, quello dell'obbligo di essere soggetti a norme invadenti, abusive, come quella che prevede l'obbligo di indossare il velo in pubblico. E questo obbligo ha spinto molte donne nel corso dell'ultimo anno a sfidare pubblicamente queste leggi, svelandosi, togliendosi il velo in luoghi pubblici. Molte di loro sono finite sotto processo e Nazarin si è data da fare nelle aule giudiziarie per impedire che venissero condannate, fino a quando ha potuto, perché poi è stata portata in carcere già diversi mesi fa. A questo punto che tipo di mobilitazione servirebbe per Nazarin? Noi continueremo a fare la nostra parte. Sono contento che nel giro di poche ore abbiamo già raggiunto 25.000 firme sull'appello che è sul sito amnesty.it, che naturalmente non è un successo di Amnesty International, ma è un peso che possiamo mettere a disposizione per far sì che questa condanna sia immediatamente annullata. E poi naturalmente c'è qualcosa che la comunità internazionale deve fare. Io assisto con stupore all'inconcludenza di questo dialogo sui diritti umani tra Unione Europea e Iran, e se l'Unione Europea non preme in maniera decisa sul piano diplomatico e politico per ottenere la scarcerazione di Nazarin, sarà l'ennesimo fallimento.